Wall Street, i viaggi del lupo. E ci siamo come ogni venerdì, oggi venerdì 14 aprile, questa è una nuova puntata di Wolf Trips. Io sono Domenico Biancardi alla regia e oggi cercheremo nuova musica underground, soprattutto nel mondo hip hop e rap elettronico. Tra i brani nuovi avremo il brano nuovo di Day con You Right, il Gold Link, Powers, un nuovo remix di Joy Mason, il nuovo remix, ancora un remixer, di BK. E partiamo subito invece con Sampa e il nuovo brano Blood on Me. Grey hoodies, they cuff their heads. I can't see their faces, can't see. And they knew me, looked swell my hair. My heart was something drumming. No need to take from me. Don't throw the paint on me. I see this look forming. I got lost astray. And as far as running away, Sampa Sisei Day Jack, inglese di origine, e rilascia questo album dal quale abbiamo estratto Blood on Me nel 2017. Con l'album Process arriva davvero in alto nelle classifiche di vendita inglese e il suo stile è un mix tra l'elettronica, il soul, il jazz. Il brano che abbiamo ascoltato mi ha colpito particolarmente, soprattutto per il giro di basso che quasi va a inseguire la voce. È uno di quei brani degni davvero di nota. Proseguiamo invece con una band che abbiamo già presentato settimana scorsa, dal nome un po' particolare, perché loro si chiamano Portugal The Man, ma in realtà sono australiani, e il brano si chiama Feel It Still. It's 1986 now. just for kicks. I've been feeling it since 1966. E loro sono i Portugal The Man. Questo è un nuovo brano estratto dall'album Woodstock. La band mixa sapientemente molti stili e generi tra di loro, tra come l'indie, il pop, l'elettronica, e il giro di basso e il drum sono molto molto caratteristici. In questo brano tra l'altro c'è anche un giro di sax di sottofondo molto bello. Il nome, dicevamo, che è un po' particolare, Portugal The Man, per un gruppo che in realtà proviene dall'Alaska, non come ho detto prima, non mi ricordo neanche cosa ho detto. Continuiamo ora il nostro viaggio con Thundercat, e il brano è Friend Zone. Thank you. E lui è Stephen Burner, di Los Angeles, un produttore che ho più volte definito eclettico per la sua versatilità anche ad adattarsi a diversi generi. Questa Friend Zone, estratta dal suo album Drunk, è arrivato parecchio in alto nelle posizioni R&B delle classifiche americane. Ora cambiamo leggermente stile e passiamo al nuovo brano dentro Wolf Trips. Loro sono Day con You Right. I ain't with the back and forth, I ain't back and forth, like fuck up what you asking for, but your back and forth, like but is she your man still back or homie, ain't that important, like you ain't really seen it like that before, not like that before, you like when you put it like that, like that, like that, like that, you right nigga think you got it like that, when I act like that, alright I'm about to have to backtrack, backtrack, back on track, you right you right. You right, you right, you right. Already know what you want, bitch, why you keep hitting my phone? Fuck with a nigga before, just wait till I get in my zone. Fuck all the silly talk, mama told me never hit it raw. Certain shit a nigga pick up on, you cannot trick me, the jig is up. Level up, bitch, like, evidently you dumb. No, the boy ain't no chump. Real nigga don't say nothing, I'ma roll up my skunk. Then I burst up like dumb. When your nigga gon' give up? Girl, quit fun. When you put it like that, like that, like that, like that, you right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack, backtrack, back on back. You right. You right. You right, you right, you right, you right. Never ever give a bitch a clue what you really tryna get into. Both the friends wanna come with me, telling good things always coming through. Can't let you walk out the door till you show me what that pussy hitting for. Not tryna fuck up the vibe, but you got me out by a quarter to five, ho. Say that she feeling my aura, but never been with a nigga from Aurora. Think like she El Salvadorian, feels like she working Sephora. Everything going accordingly until she started feeling too important. I couldn't do nothing for her. Before shorty left out the door, she said, when you put it like that, like that, like that, like that, you right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack, backtrack, track on fact. You right. You right. You right, you right, you right, yeah. When you put it like that, like that, like that, like that, you right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack, backtrack, track on fact. You right. You right. You right, you right, you right, yeah. E loro sono Day con You Right, un gruppo che si sta iniziando ad affermare negli ultimi festival musicali. È molto particolare il brano in quanto mixa l'hip hop alla musica elettronica. Poi inoltre le loro linee di basso danno un senso quasi febbrile a tutto il brano, senza mai dare respiro a chi lo ascolta. Mi piacciono davvero molto loro con questo brano. E ora, prima di partire con la pubblicità, vi annuncio che dopo ci sarà il prossimo brano di Gold Link con Pray Every Day. Wolf Trips, i viaggi del Cody Shinny. Yeah. Pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away, fam. Yeah. Pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away, fam. Yeah. Hold my black Nina in the sky, shoot it high. Maybe hitting an angel, watch it fall down, fam. Free the hope, I said free the guys on my life. Been addicted to the pussy, that's my vice, yeah. Drinking, drinking, drinking all my problems. I don't need nobody, I just need my bottle, that's for certain. Put the pussy on a pedestal. I don't got no industry friends, cause I'm rude, so I told myself, pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away, fam. Yeah. Pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away, fam. Pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away, fam. Pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away, fam. I'ma pray every day, head straight. Get my head right, rip my horse stick. You know you gon' have to keep a bad bitch. You know that the younger niggas looked at you. Vibe with a nigga, yeah, they feel you. Tattoos from my sit, you know I had to. But the music business think that you gon' take our chance, nigga. Past con, yeah, I'm Peter Mackle. DC, yeah, you know they fucking proud of you. Wildin' out, shout out Luciano, yeah, we're flying out. Out this motherfucker, proud to be up in the White House. White bitch, talking about she love her niggas blacked out. From the north, Blubby in the south. Went to big house, sweet from sleeping up on mama couch on mama house. And mama gave her mama slave, and now her son is getting paid. And Baba was a rolling stone, now her son on rolling stone. And all I said was shit, look, pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away from yeah. Pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away from yeah. Pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away from yeah. Pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons, keep the haters, keep them kicking. Lord, I pray for wealth and power over all these motherfuckers. For the DMV to reign for many moons. Fuck these rappers, fuck these labels, fuck these bitches, you hear me? They killed my nigga and I pray for revenge. Control me and use me the way you would allow me to. Amen. E lui è Gold Link con Pray Every Day. L'abbiamo già ascoltato col brano Fall in Love. E in realtà questo brano qua è un po' più introspettivo, dove il rapper afferma di dover pregare tutti i giorni per combattere tutti i suoi demoni come la solitudine e l'alcol. Effettivamente qualcosa di malinconico si sente un po' nel brano. Molto interessante comunque Gold Link, è un rapper che seguiremo molto spesso dentro Wolf Trips. Lo stile un po' mi ricorda quello dei Roots Manuva e andiamo ad ascoltarci infatti un loro brano del 1999. I can't quite remember the month nor date. Nothing was running, I was jamming around my bitch. I had a feeling for a jacket, but had no cash. I had no choice to piggy bank or trash. Was me and my bold self with five bags of coppers splashed out on the counter at PJ Patel's. He's far from happy with my method of pay. I shrug my shoulders, I'm like, what can you say? It's money, ain't it? I ain't begging you, Jack. And the mood I'm in, I might just give you a slap. Grip my dragons and I leave in peace. As I step through the door, he heard the kiss of my teeth. Minding my own business, rolling down the street. I swear I heard his female voice call my name. I stuck for a second, loud as Charmaine. Some sis I used to part with from way back when. We weren't on no bone tip, just real good friends. We on some hug up and kiss up. Boy, she looking neat, head to toe in new gums and two new gold teeth. I'm like, what you wonder, she said. This and that, I said, well, come round my yard, let's crack this four pack. Back at my yard, we heavy chill, killing time. Exchanging views and getting thoughts off the mind. For three whole hours, everything was crisp around. Quarter to 12, they took the strangest twist. I'm looking in her face, I swear it looks up. She's sweating like she dipping in some horse's truck. Then she flips out, screaming quick, I need a blouse. I'm trying to keep this brown, but it's busting my eyes. It seemed like the planet gone mad. What you staring in my face for? I told you dudes I can't save y'all. But the figures with this strange behavior. It seemed like the planet gone mad. What you staring in my face for? I told you dudes I can't save y'all. But the figures with this strange behavior. Strange behavior. Charmaine the headstrong. Proud miss it. Fell for a local fluff leadership. We're living the high life. Sitting in a luxury's lap. Little did she know she was raving a trap. Get the fuck that she loved was a two-bit fuck. The notes that she spread with were drapes in blood. But she was mesmerized by the rude boy charm. 2 years had passed, she thought she was safe from harm. But the past has a strange way of rearing its head. Just when she was thinking it was dusted and dead, it's like petrol bombs come flying through the window. Cause there's a 10 grand price on his life. Ready to be cashed when his heartbeat ceases. All that he try, he can't get no peace, cause he's running from the beast, and he's running from the friends. After all said and done, it's the beast that wins. Wilding on borrowed time, soon to get nabbed, with two keys of fluff that he just did grab. When a man got nicked, Lord knows she couldn't cope. Started hitting the bottles, started tying the rope. E loro sono i Roots Manuva, un brano un po' particolare, non è proprio il mio genere preferito, però volevo farlo ascoltare per far capire un po' che cosa, diciamo, girava negli anni 1999, esattamente 18 anni fa, quando l'hip hop in realtà non si mescolava molto facilmente ad altri generi. Però in realtà artisti successivi, come ad esempio Gold Link che abbiamo ascoltato prima, stanno iniziando a fare questi esperimenti e stanno anche ben riuscendo. Questo brano qui delle Roots Manuva, che si chiama Strange Behavior, nella ritmica scandita dal drum hip hop, c'è una voce che non smette mai di accompagnare la base. E il brano in realtà è un bel esempio di hip hop, ripeto, di 18 anni fa. Ora facciamo un bel passo in avanti e ci spostiamo con un brano pop dal sound molto molto innovativo. Loro sono i Powers e il brano si chiama Man on the Moon. Single day, and every night I'm out on my own, all alone. Yeah, nothing ever changes. Always wondering what's below. Wherever I go, I've seen you before. Yeah, I know you're tight. Try to take them wrong and make them right. Yeah. Questo è Wolf Trips e questo brano che stiamo ascoltando è Powers con Man on the Moon. Con questo brano si sposta un po' in avanti il concetto di pop alternativo, introducendo voci vocoderizzate e suoni molto più elettronici. Loro vengono da New York e si stanno facendo conoscere con questo brano, Man on the Moon. Ora torniamo sulle strade già battute da Wolf Trips e ascoltiamo Die Ajax con il suo brano Supernatural. Die Ajax, the dawn. Let's have a run at sex, I give you a head start. Get it? I got hoes that's gonna send it. Flyer than these pigeons, got more rats than Christmas. Backwards, raw papers, even smoke with shit. Please mind your business. Whip same color as my Timbs is. You was about as big as a tits is. New York City mixed fits on that pimp shit. We ain't with shit. Firm like Foxy, whole swag they copy. Zen in the oxy, moving like a zombie. Legend like Harambe, been hot since my space. You ain't talking money, get out of my face. I'm on deck like batters, blunts fatter. When it's spent on whatever, don't matter. Happier when it's Saturday, you just sadder. Walk around ladders with my goons got ladders. Jeans looking clean, they don't need suoniamo questo brano in Wolf Trips. Ogni volta che lo ascolto mi piace sempre di più. È giusto connubio tra l'hip hop e l'elettronica. Comunque oggi voglio proporre questo brano anche in un'altra veste. Infatti, riascoltando dei vecchi brani di Tricky, ho trovato una grossa similitudine. Giusto come esempio, ascoltiamo Tricky con Gangster Chronicle feat. Bella Gotti. Father, and I'm rather glad he ain't fucking old cunt. Who's a national Il ritmo di questo brano di Tricky è un bel po' più incalzante di quello di Day e Jack che abbiamo ascoltato prima, ma in realtà se ascoltate bene i suoni sono veramente gli stessi che gli artisti pop e rap stanno proponendo negli ultimi anni. Tricky è stato sempre un innovatore e con questo brano del 2014 ha anticipato i tempi di almeno 3 anni. E per oggi l'esplorazione hip hop di Wolf Trips finisce qui, adesso continuiamo dopo la pubblicità con un brano, con un remix di Joe Mason. Viaggi del lupo. Breaking rules of loving kind. The rhythms of my body beat, are you? siamo tornati a Wolf Trips con Stalgia, remix di Joey Mason, produttore che proviene da Sydney. Questo brano mi ha colpito davvero molto, un remix ben fatto, nello stile mi ricorda un po' i pezzi dubstep di Flume. Ora torniamo ai brani elettronici, a un brano che abbiamo ascoltato spesso in Wolf Trips. Loro sono i Soul Walks e questo brano si chiama Missing Wires. E loro sono i Soul Walks con Missing Wires, un brano super elettronico, un basso davvero caratteristico. I Soul Walks, che sono stati da poco in onda anche sulla BBC, stanno continuando la loro scia positiva con il loro nuovo album From the Wii. Ascoltandoli bene mi viene in mente un altro autore di qualche tempo fa, non so se vi ricordate Tiga, e il brano è Far From Home che andremo ad ascoltare. Prima però volevo salutare un po' di persone che ci stanno seguendo. Katia da casa, invece qui in studio con me c'è Sara e soprattutto Cristina, che non si fa vedere e sta anche rovinando tutto il mio cellulare. Poi dopo vedrò un po' cosa combinare. Andiamo ad ascoltarci quindi Tiga con il brano Far From Home. Un DJ canadese, aveva fatto degli album davvero notevoli anni indietro, sicuramente poco underground, un po' più mainstream, però comunque col suo stile aveva creato un sottogenere, iniziando a introdurre il pop melodico nell'elettronica. Questo brano che abbiamo ascoltato oggi è del 2004 e quindi esattamente di 13 anni fa. Ora ascoltiamo una novità in Wolf Trips, loro sono Ye X Squared e il brano si intitola Gloss.

Get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it. Getting drunk on the past we were living in. If we go down, when we go down together, they'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, when we go down together, we'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. E loro sono i Chainsmokers, brano che mi dicono essere molto commerciale, infatti è molto famoso sulla scena electro dance, ma questo remix di BK nuovo nuovo lo porta un po' nella scena underground. I suoi remix di BK appunto sono supportati da artisti molto famosi quali Diplo, Martin Garrix, Tiesto e molti altri. Questo remix che abbiamo ascoltato mi piace davvero molto, in quanto senza stravolgere troppo il brano originale ha aggiunto una linea drum quasi dubstep. Sicuramente ascolteremo molti brani di questo remixer. Ora andiamo sull'ultimo brano, un brano che ho passato spesso in Wolf Trips. Lui è Unlike Pluto e il brano è Everything is Black. Fall over my heart. I black out the moon. I wait for you to come around. You got me dancing in the dark. Dancing in the dark. I close my eyes, but I won't sleep tonight. Maybe you should come with me. I'll take you to the dark side. Me and you, you and me, do bad things in the nighttime. Kill the lights, hit the lights, let it black out, black out. Hit the lights, let it black out, black out. Oh. Black bird, black moon, black sky, black light, black everything black. Black heart, black keys, black diamonds, black out, black everything black. Eternal state of mind, children of the night, but it's the only way alive. It's black holes pulling me inside of this black heart, the black soul underneath this black, black sky. Maybe you should come with me, I'll take you to the dark side. Me and you, you and me, do bad things in the night. E questo è l'ultimo pezzo di oggi, abbiamo già sforato di 2 minuti, dobbiamo chiedere scusa al programma dopo, Wolfman Jack, che mi sta già facendo segni brutti. Lui è Unlike Pluto ed è un produttore di Los Angeles. Questa traccia Everything Black l'abbiamo già ascoltata più volte, ma mi piace davvero molto. Per oggi è tutto, ci vediamo settimana prossima, venerdì prossimo, sempre dalle 8 alle 9. Ciao!